La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gli occhi azzurri che hai e quel viso d'angelo, tu cammini e non sai chi sei, dispersa tra i 18 anni tuoi. Il tuo nome è straniero, più di una volta mi hai chiesto il perché, ti hanno risposto che tu non sei vera, sei una bambola, una statua di cera. Fanny, Fanny, il tuo nome è scritto qui. Fanny, Fanny, cerchi amore, lo so, è così. Gli occhi azzurri che hai e quel viso d'angelo, tu cammini e non sai chi sei, dispersa tra i 18 anni tuoi. Fanny, Fanny, il tuo nome è scritto qui. Fanny, Fanny, cerchi amore, lo so, è così. Le api regine ti hanno addestrato a dare amore se l'hai ricevuto sullo specchio del tuo cuore. Parola amore, un fiore nascerà, un fiore nato già. Yeah.